Dialog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Sì. Allora, dichiaro aperta la seduta. Insomma, lei non chiude mai l'ascensore. Lei è un moroso. Lei è un curluto. Lei deve ancora tirare. Eccole, uno. Di questo abbiamo più volte parlato. Quanto è divertente vedere come l'umanità si scatena nei suoi peggiori istinti durante le riunioni di condominio. Le riunioni di condominio è il momento della verità in cui ognuno può dire, pensare, agire, demolire tutto ciò che pensa delle persone in cui è costretto a convivere. Perché? Perché sono condivisioni di pianerottolo, di scale, di ascensori, di guardiola, di terrazzo, di tutte le aree che comunque siamo costretti a condividere con altri esseri umani che in realtà vorremmo non vedere, non sentire, ci dà fastidio soltanto alla loro esistenza. Vorremmo tutti essere dei re, dei sovrani, con dei palazzi immensi abitati solo da servitori, e invece no, non è così, ci tocca convivere con altre persone che hanno gli stessi nostri diritti. Questo, dico, fa parte del passato perché, se vogliamo rappresentare la rissosità, le tensioni sociali, l'ipocrisia nella tolleranza, dobbiamo semplicemente parlare di riunioni condominiali. Invece abbiamo osservato da vari sintomi che non sono nuovi, non è che sono fenomeni accaduti negli ultimi mesi, lentamente, con grande pazienza, in maniera sotterranea. In tutta Italia alcuni condomini hanno deciso di cambiare completamente il corso della storia sociale del nostro paese e organizzarsi in maniera solidale. Io una volta feci questo tentativo, provai a dire agli Umarell che abitano nel mio condominio: guardate, avete un immenso terrazzo con vista a San Pietro che non serve a niente, dove ci cacano soltanto i gabbiani, trasformiamolo in un grande terrazzo attrezzato, mettiamoci un barbecue, degli ombrelloni, delle sedie, facciamo finta che siamo ricchi perché abbiamo un terrazzo che possiamo usare tutti, ognuno fa una lista, ci invita i suoi amici. Figuriamoci, gli Umarell si sono tutti solidarizzati. Cosa? Una discoteca? Lei cosa fa? Porta le donne nel condominio, se lo scordi, la notte vogliamo dormire. E lì c'è un terrazzo inutilizzato con vista a San Pietro che ci vanno soltanto i gabbiani a fare il nido. Ecco, invece da altre parti si organizzano diversamente. Si stanno organizzando che alcuni servizi che possono essere utili alla collettività vengono organizzati dal condominio. C'è la badante condominiale, c'è l'orto condominiale, c'è la spesa condominiale, tutta una serie di attività che, fatte assieme di buon grado e di buon accordo, fanno vivere meglio tutti. Il condominio si trasforma da luogo di risse e di sospetti in luogo di pacifica convivenza. Questo è stato possibile in alcune parti d'Italia e di questo oggi cercheremo di dare un resoconto organizzato, ma vorrei il vostro contributo. Nel vostro condominio c'è in nuce, in embrione, qualcosa di simile? Siete mai riusciti a organizzare qualcosa che non sia soltanto il sabotaggio al portone, la chiave, la cassetta della posta, alla bicicletta inchiavardata nell'ingresso del vostro vicino? 800 24 00 24, la avanguardia condominiale è alle porte. Alina è una badante di condominio, cioè assiste diverse persone nello stesso stabile. La notte fa compagnia a Giuseppina, la mattina va al piano di sopra ad aiutare Maria. I vantaggi per gli anziani sono enormi. Oh, buongiorno signora, ben svegliata, ha dormito bene? Bene, si vede che io offro la colazione. Il caffè, biscotti. Come sta la signora Maria? Ma sta abbastanza benino. Adesso va via? Sì, adesso vado da signora Maria e ci vediamo stasera. Arrivederci. Con Lin noi abbiamo già un rapporto di fiducia, di amicizia. In un anno noi non abbiamo mai avuto dei problemi. Una brava ragazza, ci segue. Siamo molto contenti, è una cosa molto valida per tanti motivi. È importante perché noi la possiamo sempre trovare qualsiasi ora. per un'urgenza. Questo è un servizio di Rai 3 che raccontava la storia, ad esempio, di una badante condominiale. In un condominio ci sono anziani, ogni famiglia comunque ha il problema sia della gestione dell'anziano, dell'anziano che vive solo o dell'anziano che vive in famiglia, o l'anziano che ha bisogno di un supporto, e ognuno deve pensare a una badante o un badante, che non sempre necessariamente deve essere H24 a presidio degli anziani. E quindi se in un condominio ci sono alcune famiglie, diciamo, piuttosto agee o con alcuni problemi di gestione quotidiana e non hanno solamente bisogno ancora o necessità di un badante H24, possono dividerselo. Diventa una persona che fa il giro delle famiglie, si organizza gli orari in base ai loro bisogni. È possibile questo? Sì, in teoria è possibile, da qualche parte lo fanno, non sempre è facile, perché bisogna mettere poi d'accordo le esigenze di tutti, le singole necessità. 800 24 00 24. Alberto Zanni, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Alberto Zanni è presidente nazionale di Confabitare, che è l'associazione dei proprietari immobiliari. E visto che i proprietari ci tengono ai loro immobili molto più di quanto ci possono tenere magari a volte le persone che li occupano, ha lanciato un'iniziativa, l'ha già sperimentata a Bologna, su 53 condomini, e lo sta proponendo anche a altre città italiane. L'idea è quella che più o meno ho anticipato io, mi sembra di aver capito, Zanni: trasformare i condomini in piccoli laboratori sociali piuttosto che in luoghi dove gli amministratori devono essere soltanto gli arbitri, gli avvocati o quelli che tengono l'elenco delle varie proteste dei condomini. Esatto, il nostro progetto di welfare condominiale è proprio quello, ha due obiettivi: primo, di creare una maggior coesione, collaborazione e anche complicità tra i condomini, tra gli stessi condomini e le famiglie che abitano lo stesso condominio, quindi evitare quella litigiosità che lei diceva poc'anzi, e secondo anche quello di portare un risparmio a queste famiglie, quindi anche in questo momento di crisi. A parte che il risparmio fa sempre comodo in qualsiasi momento, ma a maggior ragione in questo momento di crisi poter risparmiare sulle spese, sicuramente ottimizzare le risorse invece che andare al massacro, che ognuno tu vuoi il riscaldamento a quell'ora non ti va bene, allora voglio altre due ore io perché io sento freddo, e via dicendo. Esattamente, proprio così. Ecco, quali sono, diciamo, i campi in cui si comincia a operare? Noi per realizzare questo welfare condominiale siamo partiti con un primo progetto che è la badante di condominio, proprio quella che voi illustravate prima, la signora Lina che si divide tra varie famiglie dello stesso condominio. Poi abbiamo realizzato successivamente i gruppi d'acquisto condominiale, così come anche gli infermieri di condominio e la babysitter di condominio. Quindi, come lei vede, il fattore comune qual è? Tutto quello del condominio, cioè tutte le famiglie che abitano in un condominio. E poi, diciamo, metterli assieme attorno a un tavolo per poter risolvere i problemi che hanno. Ecco, la procedura com'è per cominciare? Se una persona illuminata volesse invece che proporre argomenti di dissidio, argomenti di... cioè io sto in un condominio in cui non è stato ancora possibile escogitare il sistema di mettere un'apertura al portone che funzioni, perché c'è sempre qualcuno che non sta bene e via dicendo, quindi sì. Per me è l'altra faccia della luna. Però lei com'è iniziato a dire la babysitter condominiale? Le famiglie hanno dei bambini, devono arrabattarsi per far coincidere orari di lavoro dei genitori, le esigenze dei bambini, decidono e prendono una per tutti. Come avete fatto a convincerli? Beh, devo dire la verità che a convincere queste famiglie, sia per la babysitter che per la badante, che sono due case diverse ma hanno la stessa operatività, non è stato molto difficile, perché quando abbiamo parlato a queste famiglie di questi progetti, vuoi perché è anche una novità, quindi l'hanno subito accolta positivamente, ma anche hanno capito subito quali sono i benefici e i vantaggi delle famiglie, quindi da una parte sicuramente un risparmio economico, una comodità, perché ad esempio pensiamo al discorso della babysitter: il genitore la mattina dovrebbe uscire col bambino, portarlo all'asilo, intanto non sempre entri nelle graduatorie dell'asilo, perché in alcuni casi sei anche escluso o sei in lista d'attesa, quindi non sai dove appoggiarla, magari non hai i genitori vicini, non sai che... In questo caso c'è una professionista che è una babysitter che si reca in quel condominio e si prende cura dei bambini di quel condominio. Cioè fa una specie di piccolo asilo condominiale, perché alla fine ne terrà due o tre insieme, non è che ne farà uno per volta, immagino. No, certo, due o tre insieme. E dove li mette? Uno fornisce l'appartamento a turno? Allora, noi abbiamo diciamo risolto in due modi, a seconda ovviamente delle occasioni. Nella maggior parte dei casi sono le stesse famiglie dei genitori che a turno mettono a disposizione l'appartamento. Questa settimana vieni da me, la settimana prossima vai da lui. È un ottimo accordo questo. Esatto, ed è solitamente il migliore e il più utilizzato. Oppure ci sono anche quei casi dove ci sono degli spazi condominiali, le famose sale riunioni che poi vengono utilizzate poco perché di riunione se ne fa una l'anno. Ecco, in questi spazi condominiali la babysitter può, diciamo, nell'arco della mattinata o della giornata, quando ha bisogno, star lì, fermarsi con i bambini. Ecco, lì non ci sono normative per creare degli ambienti adatti dove stanno i bambini, è semplicemente, diciamo, un appoggio di alcuni bambini, non è un ufficiale, nido interno, perché sennò sarebbe abbastanza complicato, penso. Esattamente, questa è proprio la babysitter. Allora, come sappiamo, se la babysitter va in casa di una famiglia per badare i bambini, non ha bisogno di normative. È una cosa familiare, diciamo. È chiaro che se dovessimo realizzare, come lei giustamente dice, un vero e proprio asilo condominiale, allora ci sono delle normative igieniche e sanitarie che vanno rispettate. Che lo renderebbe quasi impossibile, le assicuro. Esattamente. Bisogna, diciamo, trovare nelle maglie delle norme, rispettando la legalità, delle maniere per poter sopravvivere, perché non sono mai riuscito a vedere la realizzazione, anche quando lavoravo in aziende molto grosse, di asili nido per i dipendenti. Ricordo alla RAI a Saxa Rubra, provai a proporlo, c'erano decine di palazzine inutilizzate, c'era la palestra dei giornalisti, non si riuscì mai a fare un nido per i dipendenti che avevano, perché c'erano mille normative. Così pare più possibile. Sentiamo Gianni, 800 24 00 24, quali sono le soluzioni di quieto, ma non soltanto quieto, di etico e anche utile vivere condominiale, che non si pensi soltanto alle liti. Gianni, buongiorno. Buongiorno, io intervengo nello specifico per quanto riguarda il nostro condominio, dove abbiamo creato una rete, diciamo, di comunicazione attraverso WhatsApp o email, prevalentemente, almeno questo è nato così, per proteggerci dai furti, perché abbiamo subito in passato dei furti, seppur diciamo c'era la vita condominiale che doveva in qualche modo proteggerci, la cosa veniva vista, diciamo, uno distante dall'altro. Adesso in sostanza siamo collegati. Avete fatto un gruppo di WhatsApp dove vi comunicate se sentite rumori strani? Se sentiamo rumori strani, perché visto che ci sono anche persone che fanno orari diversi, lavorano di notte, quindi quando rientrano vedono anomalie, eccetera. La cosa ha funzionato, a dire il vero, da quando abbiamo istituito questo tipo Quante famiglie siete? Quante famiglie siete? Siamo 25 famiglie. Beh, un buon numero. Tant'è che nell'area vicino a noi c'è un'altra zona condominiale dove oltre 100 famiglie si sono unite con questo sistema e hanno addirittura istituito una sorveglianza notturna, pagando ognuno 40 euro, fissa. C'è una ronda fissa notturna che in pratica... Però collegata via WhatsApp, quindi funziona per tutti. Funziona per tutti quanti, esatto. Ecco, io solo un dubbio mi viene, glielo chiedo proprio per sapere, per avere un quadro più preciso. I gruppi di WhatsApp, che oggi sono anche inflazionati, si fanno per tutto, diventano poi delle... porte aperte a ogni facezia. Non è che nel gruppo WhatsApp poi alla fine uno segnala che ora si è rientrato, sento rumore, che fa il vicino e via dicendo, e si scivola su una sorta di facezia di sorveglianza piuttosto che di reale. Siete riuscite a tenere fermo il timone sulle cose serie piuttosto che sullo scherzo? Guardi, è una delle mie preoccupazioni, sinceramente ha funzionato in maniera perfetta, non c'è alcuna ingerenza, anzi questa cosa ci ha unito di più, perché poi da questa cosa sono nate tutta una serie di piccoli lavori, diciamo progetti condominiali nel vero senso della parola, mi riferisco alle manutenzioni ordinarie, cioè oggi si parla di crisi, si parla che non si possono spendere soldi in maniera non oculata. Cosa abbiamo fatto? Ci sono dei lavori da fare, sostituzioni delle lampade, sostituzione dei sistemi di irrigazione. Questo strumento ci permette di confrontarci in tempo reale per far sì che si trovi la soluzione migliore. Cioè, quindi io ritengo anche questo strumento, diciamo, che si chiami WhatsApp o che si chiami in qualsiasi altro modo, che permette un'interazione costante, attiva e permanente, sia uno strumento valido per poter riuscire a trovare un senso condominiale, perché se no la vita condominiale che cos'è? Ma diciamo è un'applicazione reale e concreta del social networking, perché nelle sue letture più superficiali è soltanto uno strumento di gioco di facezza, ma in realtà è uno strumento potente. Mai nella storia dell'umanità abbiamo avuto un oggetto tascabile in cui potessimo avere un contatto immediato con tutte le persone della nostra area di convivenza. Bisogna telefonare all'amministratore che avverte tutti i condomini, così in un istante si dice: guarda, oggi l'ascensore non funziona, vi avvertiamo, qualcuno avverta la manutenzione. E cosa ne pensa Alberto Zanni di questa idea del network condominiale? Beh, sicuramente è un'operazione molto importante. Non è la prima volta che ad esempio al telegiornale si sente la notizia che un furto in un appartamento è stato sventato dal condomino, dal vicino, perché ha sentito dei rumori, ha avvisato la polizia e i carabinieri, quindi sono riusciti a sventare il furto e arrestare il ladro. Quindi a creare una rete all'interno del proprio condominio sicuramente aiuta. Come dice lei, ecco, non bisogna poi scadere nel pettegolezzo, perché alla fine andiamo poi a controllare chi esce e chi entra. Poi diventa uno strumento di controllo improprio delle abitudini condominiali, ci vuole grande rigore in questo. Lì scatta poi tutto il discorso della privacy e quant'altro, però al di là di questo è una rete molto importante, perché crea quella coesione, cioè sicuramente aiuta anche a essere più sicuri all'interno del condominio, anche perché quando noi diamo i consigli prima delle ferie, perché si sa che durante il periodo estivo è sempre il momento in cui i furti in appartamento aumentano, uno dei consigli del decalogo è proprio quello di dire: avvisate un vostro vicino di casa che andate via, proprio perché possa essere attento magari a eventuali rumori e sospetti. Però al di là di questo c'è anche il fatto della coesione, qui torniamo nel discorso iniziale del welfare, della coesione condominiale, perché oggi si inizia da creare questo gruppo in WhatsApp per avvisare di eventuali rumori sospetti, un domani chissà si fa una cena di tutto il condominio per stare assieme e per festeggiare il rientro dalle ferie, che è andato bene, che nessuno ha avuto dei problemi, ecco. Quindi si crea questa collaborazione all'interno del condominio. Io volevo solo un attimo con lei tornare però sull'argomento che avevamo lasciato in sospeso prima, quello diciamo dei servizi sociali condominiali. Abbiamo parlato sia dell'asilo nido e della badante. Vogliamo dare qualche numero? Quanto costerebbe rispetto al costo medio di una badante, che può essere 800 euro, 1000 euro al mese, una badante condivisa? Allora, una badante, se una famiglia prendesse una badante tutto il giorno per poter assistere un anziano, pagherebbe mediamente dai 1000 ai 1200 euro più contributi, paghiamo mensilmente. Ecco, in questo caso, con questa suddivisione di ore giornaliere, le famiglie vengono a pagare mediamente 250-300 euro al mese, quindi c'è una bella differenza come risparmio. E la badante in questo caso anche lei staziona come una volta i portieri in una specie di locale condominiale a disposizione degli anziani? No, ha un ruolino di marcia quotidiano? Ha un ruolino di marcia, come giustamente lei lo definisce, un programma dove lei sa che arriva la mattina e deve stare lì fino alla sera, e le fasce quotidiane vengono proprio divise e condivise dai condomini, tipo dalle 8 alle 10 va dalla signora Maria, dalle 10 all'una va dalla signora Fernanda e via così. Quindi è un servizio condominiale fisso che rimane lì? È un servizio condominiale, la badante è all'interno dello stesso stabile tutto il giorno, quindi non deve girare da una parte all'altra della città, perché magari alla mattina va da una famiglia che abita da una parte, pomeriggio da una famiglia che abita da un'altra parte, quindi diciamo ha un risparmio anche in tempo e in costi. Prende uno stipendio completo, perché alla fine, facendo la somma di tutte queste ore, è una giornata intera, quindi uno stipendio completo. I vantaggi dei condomini quali sono? È che pagano meno, come abbiamo visto poco fa, e soprattutto, e qui è secondo me la chiave che dà il successo al progetto, soprattutto hanno la stessa copertura giornaliera, perché, faccio un esempio pratico, la signora Maria c'ha la badante dalle 8 alle 10, benissimo, la signora Maria ha bisogno urgente di un intervento all'una, può chiamare la badante perché si troverà alla porta accanto o al piano di sopra. Può lasciare un attimo un anziano che magari in quel momento non ha bisogno. Esatto. È una grande. Fermiamoci un istante che devo dare la linea alla pubblicità. Abbiamo già Caterina che ha un'esperienza personale legata proprio agli script di condominio, cioè i programmi di condivisione digitale, di osservazione su quello che accade nel condominio. È stato sistematizzato da Caterina, che sentirò però fra un istante. Dialog. Cronache meridiane. Oggi stiamo analizzando i nuovi laboratori di aggregazione sociale, che sono i condomini, che hanno abbassato le armi, hanno smesso di farsi la guerra tra condomini, hanno deciso di mettere in comune le risorse individuali per vivere meglio. Sarebbe la cosa più intelligente che tutti potrebbero fare, poi sa, naturalmente si va a incrociare con i caratteri delle persone. Come avevo annunciato, avevo Caterina che aspettava al telefono. Caterina, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei cos'è, una programmatrice? No, io faccio un altro lavoro. Ma noi abbiamo deciso di intervenire perché noi abbiamo un'esperienza forse un po' particolare, perché il nostro condominio, che è un condominio molto grande, ha creato una comunità... Spenga la radio, se c'è una radio accesa, la sento un po' male. No, la radio è spenta. E allora, al telefono un po'... Sì, non si muova magari, ecco. Sì. Mobile. Ecco. Noi abbiamo creato una comunità che è come un social street, che sono queste comunità di quartiere, che però è relativa proprio al nostro condominio, che è un condominio molto grande, e quindi questa comunità si parla su Facebook, usando una piattaforma internet, ma diventa poi una comunicazione reale di persone che si incontrano realmente sui corridoi e che magari non si sarebbero conosciute se non si fossero parlate prima, e che diventa uno strumento molto interessante per far crescere, come dire, ma avete creato una vostra piattaforma, diciamo, proprietaria, dove ci state, sì, soltanto voi. Sì, una piattaforma che si chiama Condominio X Abitanti di eccetera. Ma è replicabile, nel senso, uno volendo potrebbe prendere il software come un gestionale per un'azienda, ecco, diciamo, una cosa del genere. No, noi usiamo una piattaforma disponibile e abbiamo costruito. Aspetti, la sentiamo malissimo, la richiamiamo così ci spiega bene questa cosa, perché è interessante. L'informatica applicata alla quiete condominiale e al progresso sociale attraverso il condominio mi interessa, che in realtà il social networking, che viene spesso sottovalutato nel suo potenziale perché è usato in maniera divertente ma molto scellerata, in questo caso diventa uno strumento utile. Mauro Serventi, buongiorno. Buongiorno. Mauro Serventi è fondatore a Fidenza del primo gruppo acquisto solidale, GAS, dal 94. Oggi ne sono più di 1000 di GAS in Italia. Ci spiega bene innanzitutto cos'è un GAS, poi qual è il vostro progetto invece più avanzato di una sorta di co-housing, cioè un condominio che sembra che non possa esistere alle nostre latitudini, soltanto all'estero, ma che in realtà state sperimentando. Sì, il gruppo d'acquisto solidale è un gruppo d'acquisto di persone che collegano la qualità del cibo a tutto il sistema che l'ha prodotto e tendono a stabilire una relazione diretta tra produttore e consumatore, creando un canale fiduciario che aumenta il livello di benessere reciproco. Sono ormai più di 20 anni e questo costituisce la base dell'alimentazione di tantissime famiglie qui da noi e in Italia. Allora, tecnicamente, invece che applicata, diciamo, all'argomento del giorno, al condominio, invece che andare ognuno con il proprio carrellino al supermercato, al mercato, ci si organizza con una filiera virtuosa, cioè con produttori, con materie scelte, garantite, che portano, diciamo, poi gli alimenti direttamente a casa. Sì, noi l'applicazione diretta è il nostro condominio, che siamo 15 famiglie, ormai da 3 anni abitiamo qui, abbiamo costituito una stanza di dispensa con la cella frigorifera, siamo tutti membri del GAS e quindi da noi viene fatta la consegna per tutti e noi depositiamo la roba nella cella. E poi mi dice, il momento delicato è il momento della compilazione della lista della spesa. Hai detto 15 condomini? No, non è assolutamente c'è un software che fa questo. Ognuno lo fa da casa sua tramite il software, cioè la mattina si fa la spesa digitando sullo smartphone e poi uno se la trova di fronte o alla porta di casa o nella stanza, sì, condominiale adeguata. Sì, praticamente la cosa è più o meno così, dopo dipende, noi non facciamo la spesa quotidianamente, ma la facciamo con un po' più di... dipende dai prodotti. Si prenderà, immagino, adesso dico a caso, frutta, verdura, carne, gli alimenti che possono avere una certa conservazione, poi il pane uno se lo va a comprare tutti i giorni dove vuole, penso, non lo so. Sì, sì, anche il pane noi lo facciamo una volta alla settimana o due volte alla settimana, perché è un pane di un tipo diverso, però la qualità consiste nel fatto che i consumatori raggruppati in gruppo decidono le qualità e decidono le caratteristiche, e in base alle decisioni ci si comporta in un rapporto diverso. Ma ci sono dei momenti, diciamo, di brainstorming in cui si decide, beh, oggi passiamo, non so, a questo tipo di prodotto? Ci sono momenti istituzionali e momenti informali, nel senso che il momento della consegna è sempre un momento informale ma ricco di incontri, e poi ci sono ormai delle strutture, delle persone che sono incaricate di fare alcune cose. Il meccanismo ormai è oliato da tanti anni. Certo, immagino ci sia a monte quasi uno studio di ingegneria sociale, perché prendere il luogo che è il luogo per un po' per luogo comune, ma un po' anche per realtà della massima litigiosità degli italiani, in un luogo invece dove è possibile sperimentare dei modelli sociali che ancora non esistono, perlomeno riproducibili su scala nazionale. Sì, il co-housing è diventata l'espressione più evidente, il fatto che è concreto, è fatto di pietre, è visitabile, per cui dove la qualità della vita non è comparabile con gli altri condomini. Io abitavo in una casa a schiera, quindi, però abitare in un co-housing aumenta il livello della qualità della vita. E ci spiega esattamente il co-housing poi nella sua forma, nella sua applicazione? Il co-housing sono persone che decidono di vivere vicini facendo un patto in cui definiscono alcune caratteristiche di questo patto, e si sperimenta una relazione fiduciaria in cui che comporta, ad esempio, la scelta di fare molte cose, molti servizi in comune. Ad esempio, noi è inutile che ciascuno abbia la propria lavatrice, abbiamo alcuni la lavanderia condominiale, cioè. Però è diversa, perché adesso c'è la lavanderia, c'è l'asciugatrice, c'è la lavatrice particolare, e tutto è monitorato sotto, c'è un software che monitorizza. Uno per prenotare la lavatrice va sul sito, prenota la lavatrice e da quel momento i consumi sono addebitati. Però lei me ne deve una cosa, Alberti, questo modello per metterlo in atto occorre una progettazione a monte, cioè nel senso, occorre, se io adesso andassi nel mio condominio e dico oggi facciamo il co-housing, ma gli umarelli mi tirano in faccia al pitale, cioè dicono scherzi. Dice, sei matto. È sconsigliabile. E come si comincia? Da dove si inizia? Si comincia consultando i co-housing che sono vicini, venendo a visitare i co-housing oppure interpellando telefonicamente, andando su siti di co-housing cercando di capire quali sono le logiche che aumentano il livello di benessere. Io non cambierei assolutamente questa casa, oltre a essere una casa che, essendo costruita col contributo di tante persone che esprimono delle attese, ma nella progettazione i tecnici che ci hanno accompagnato non hanno prodotto solo una soluzione tecnica, ma hanno cercato di creare un'empatia tra le attese e le possibili soluzioni. Comunque noi qui non paghiamo acqua, luce, gas, insomma, cioè non costa niente abitare qui, perché è stata progettata a consumo zero, una casa passiva che riceve l'energia dal sole. Quindi non è che uno prende un palazzo già abitato dagli ultimi 70 anni da condominio, bisogna cominciare da zero a fare una progettazione. No, è possibile, dipende, queste caratteristiche di consumo zero, cioè, sono un po' difficili, le case passive dipendono dalle condizioni al contorno. Ma lo sa qual è adesso il momento di massima tensione? È introdurre i famosi limitatori individuali in ogni elemento del termosifone di casa, cioè ognuno ha un apparecchietto che può spegnere il termosifone e regola il consumo individuale. Costano, mi sembra, 100 euro apparecchio. Ancora ci sono persone che, nonostante ormai siano per legge, vanno presi, quindi ci costeranno molto di più di quanto sarebbero costati 3-4 anni fa. C'è ancora persone che dicono: no, non voglio spendere, io questo attrezzo non mi interessa. Ecco, lei capisce che da passare da questa mentalità ottusa, vetero pensionistica, a una mentalità di dire facciamo una casa aperta dove viviamo meglio tutti, ci vorrà una bella consulenza e bella capillare in tutti i campi. Certamente, ci vorrà anche far vedere, dimostrare, documentare che le cose più normali del mondo, cioè noi non produciamo una molecola di CO2 e il livello di soddisfazione, basta intervistarci, degli abitanti è elevato, per capire che il costo di costruzione non è superiore agli altri costi. Quindi io dico, non ci vuole molto perché una notizia del genere possa generare delle possibilità di replica, di applicazione in altri. Purtroppo questo non avviene, cioè solo in alcune nicchie, in alcuni ambienti girano queste informazioni. Ecco, a me piacerebbe a questo punto sentire gli ascoltatori che ci stanno sentendo un grande interesse, e me ne accorgo dal fatto che li vedo in muto ascolto. Qual è secondo loro l'impedimento per cui in una situazione in cui si potrebbe vivere meglio, risparmiare, faticare meno, avere prodotti migliori, quindi mangiare meglio, fare una spesa più intelligente, più gradevole, via dicendo, non si riesca ad applicare? Io trovo ancora molto difficile il primo approccio, perché tutto questo modello di società futura passi realmente come un modello nazionale. Ricordo le liti che ancora non sono passate a una fase per mettere un'antenna condominiale, una parabola per tutti, per togliere quei cimiteri di antenne sui nostri tetti, coi fili che colano giù, le liti per riparare una condotta che perde, o un balcone che fa acqua e via dicendo. Di fronte a questi esempi di così meschina poca considerazione del bene comune, trovo molto difficile l'approccio, però su questo potremmo sicuramente lavorare. Alberto Zanni, ricordo presidente nazionale Confabitar, rispetto a quanto ci ha aggiunto, a quello che dicevamo il nostro ospite, lei cosa ha da integrare? Nelle vostre organizzazioni esistono anche questa idea della spesa comune, dei luoghi comuni, ad esempio la lavanderia, via dicendo, o ancora sono esempi che appartengono all'altra faccia della luna? No, noi, come dicevo prima, quando abbiamo realizzato questo progetto del welfare condominiale, un tassello, oltre il discorso della badante di condominio che abbiamo già parlato, della babysitter di condominio, c'era proprio anche i gruppi d'acquisto condominiali, che non sono altro che i GAS, che chi mi ha preceduto ha già illustrato, applicati al condominio. Noi abbiamo fatto questi gruppi d'acquisto condominiali che hanno proprio lo stesso obiettivo, cioè quello di fare la spesa una o due volte alla settimana, raccogliendo tutti gli ordinativi dalle varie famiglie per poi ridistribuire a seconda degli ordini fatti. Questo comporta sicuramente un risparmio nello scontrino della spesa. Noi abbiamo verificato fino anche un 50% rispetto a quelli che erano i costi di andare appunto al supermercato o ai negozi vicini, e poi anche lì crea una coesione, una collaborazione tra le famiglie. Io penso anche al risparmio di tempo e di energia. Io vedo ancora signore arrancare sulle scale con il carrellino tutti i giorni, certo. Non ce la fanno più, hanno 70 anni, 80 anni, e ancora devono farlo, non gli viene nemmeno l'idea che potrebbero farne a meno e quel tempo usarlo per giocare a carte o andare a passeggio. Ci fermiamo un istante ancora, tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi stiamo parlando delle avanguardie di nuovi modelli sociali che nascono da alcuni condomini che si organizzano. Quindi vedete, il welfare riprende la sua dimensione reale dalla buona volontà delle persone. Sto pensando quanta gente in questo momento sta arrancando con le buste della spesa per le scale, inveendo, quante signore staranno tirando fuori i panni dalla lavatrice se li erano dimenticati, quindi puzzano, poi devono stenderli, prendersi il catino, andare nel terrazzo e stenderli, potevano ritirarli. E quante persone sono scordate all'ultimo momento che hanno finito l'olio, hanno finito il pane, non hanno una cipolla per poter fare il soffritto, quindi devono uscire di casa. Ecco, tutto questo potrebbe essere organizzato diversamente, non costerebbe nulla, anzi si risparmierebbe. Perché non si fa? 800 24 00 24. Mentre i nostri ospiti stanno in ascolto e risponderanno anche dal loro punto di vista a questa domanda, volevo sentire un altro aspetto delle possibilità infinite di organizzazione del benessere condominiale. Beatrice Marucci, buongiorno. Buongiorno. Beatrice Marucci è un'agronoma esperta in orti e giardini. Beatrice, oltre a sapere come si organizza, come si coltiva, come si amministra, come si usa al meglio un'area verde costruita condominialmente, naturalmente lo fa anche a vasta scala, perché può coltivare un vigneto, un frutteto, un oliveto. Quindi esiste la larga scala e la scala ridotta. A livello condominiale, in Italia ci sono esperimenti di orti condominiali, di giardini condominiali, di aree verdi condivise laddove il verde sembra impossibile attecchire? Allora, grazie per avermi interpellato innanzitutto. Io sono d'accordissimo con tutto quello che è stato detto prima di queste, però credo che, siccome abbiamo parlato di avanguardie, credo che l'orto condiviso sia l'avanguardia per eccellenza, perché in un orto condominiale la condivisione è totale. Noi fino adesso abbiamo sentito parlare di babysitter, di badante, cioè di categorie singole di un condominio. In un orto condominiale noi abbiamo tutte queste persone che sono ugualmente coinvolte. Davanti a una pianta siamo tutti uguali. Quindi quelli che sono i problemi della litigiosità e di tutte queste cose tipiche dell'antenna o comunque dei condomini, in un orto condiviso queste cose magicamente quasi spariscono. Ma è strano, perché di solito i vecchietti, quando si devono condividere gli orti comunali, si prendono a zappate, a secchiate. Sì, è vero. per chi deve però, cogliere la patata o il raperonzolo. No, è vero, però può nascere una sana competizione. Da parentesi inizia, essendo di moda adesso l'argomento, inizia. Sì, è molto la Milano Fighetta già sta facendo i giardini, esatto, nei terrazzi. La Milano Fighetta la fa, però diciamo che queste cose funzionano forse più nelle periferie urbane, dove comunque il risvolto sociale, economico, nutrizionale, ambientale di un orto condiviso è importantissimo. Ci fa un esempio, scusi dottoressa, esatto, un esempio, un condominio dove non c'è nemmeno una aiola dentro, dove si fa l'orto condominiale? Allora, l'orto condominiale innanzitutto non necessariamente deve essere fatto in uno spazio in piena terra. L'orto condominiale può essere fatto anche in dei cassoni 40x80, quei vasconi di plastica che si vendono anche nei supermercati, oppure se c'è spazio anche in cassoni di 80x120. La difficoltà diciamo che non esiste per nessuno. Può essere messo nel cortile o nel terrazzo volendo? Nel cortile o nel terrazzo, perché la bellezza del verde, dell'orto, qual è? Che anche se io sono completamente digiuno di questo argomento, piano piano posso imparare. Ma ci vorrà un ortista condominiale, perché sennò ognuno dice la sua. Allora, nel momento in cui noi decidiamo di fare un progetto comunitario e siamo d'accordo, noi possiamo avere anche un ortista condominiale. Ad esempio, per dire, Paul Diretti, che ha fatto degli orti dei community garden, ha fatto il tutor ortista per questi spazi che dà in gestione. In un condominio si può avere sia diciamo l'esperto, ma anche singolarmente mettersi diciamo in gioco, e quindi chi ha più esperienza diciamo confrontarsi con gli altri, chi ha meno esperienza stare dietro e seguire. Facciamo degli esempi pratici. Allora, un cassonetto, allora, cassonetto brutto, possiamo fare cosa produce? Un esempio banalissimo, possiamo mettere 10 vasi 40x80 in plastica comprati in un qualunque, che non costano nulla praticamente, che non costano nulla. Il terriccio si compra, residuo lo stesso di un buon terriccio. In un cassoncino del genere noi riusciamo a fare comodamente 8 piante di lattuga riesce chiunque a far. Certo, bisogna dargli l'acqua. E quanta lattuga, 8 piante cosa corrisponde nel desco quotidiano, per capire? Allora, una famiglia di 4 persone che mangia molta insalata, con una bella pianta di lattuga ci fa l'insalata a pranzo e un'insalata a cena. In un 40x80 possiamo mettere 2 piante di parliamo di periodo primaverile estivo, 2 piante di zucchine, e riusciamo ad avere le zucchine per una famiglia di 4 persone anche quasi per 2 o 3 mesi sicuramente. Parliamo di colture tutte molto, ma anche semplici. Pomodori, non lo so, anche queste anche cose. Pomodori, possiamo mettere dei pomodori, possiamo mettere della rucola, possiamo mettere della misticanza. Poi se ci vogliamo diciamo allargare su cose più complicate, e abbiamo molta acqua, possiamo mettere i cetrioli, che però vanno appesi, vanno sorretti. Possiamo mettere in inverno, adesso iniziare a mettere i finocchi precoci, poi possiamo mettere la bietola da taglio, possiamo la bietola trapiantata. Ecco, conosci qualcuno che in Italia questo lo sta facendo? Perché questo vorrebbe, facciamo allora, capire. Allora, in Italia c'è qualcuno che lo sta facendo. Io personalmente, ad esempio, ho seguito un progetto di 10 famiglie che hanno preso vicino ai loro, sono 10 famiglie che abitano in palazzi vicini, diciamo una semiperiferia urbana. Queste persone hanno preso 10 appezzamenti di una 20-30 metri quadri. Alcuni non avevano mai fatto un orto e lo hanno fatto anche per necessità, perché noi dobbiamo vedere il mica si fa solo per hobby, molti hanno bisogno in realtà di risparmiare. Esatto, molti hanno bisogno, ma anche da un punto di vista di educazione alimentare. Noi ma abbiamo ragazzini che alle 8:30 vanno a scuola con le patatine dentro la bustina. Vedere crescere una pianta e mangiarla ha una gratificazione personale che per chiunque, cioè, è inimmaginabile. Io ho visto ragazzini di 8-10 anni che noi immaginiamo sempre immersi nei loro videogiochi, che si sono appassionati e la mattina andavano alle 6:30 ad annaffiare delle piantine di pomodoro, di peperoni, di melanzane che stavano venendo su. Fermo un attimo, Alberto Zanni e Mauro Serventi, una domanda a ognuno nei 2 minuti che rimangono alla chiusura. Quello che ha detto la nostra agronoma corrisponde e si inserisce rispetto ai vostri piani e ai vostri progetti? Alberto Zanini prima. Zanni sì. Prima. Zanni. Corrisponde benissimo e si inserisce in modo perfetto, perché rientra nel discorso, alla fine se andiamo a pensare, da una parte quello è il risparmio per le famiglie e dall'altra la coesione e la collaborazione condominiale, quindi sicuramente è una parte di un progetto più ampio, che è quello appunto della coesione condominiale. Mauro Serventi, nel suo progetto di co-housing c'è anche la coltivazione, perché sembra una cosa così arcaica, lontana, antitetica al vivere in dei condomini, quindi dei palazzi anche periferici. Corrisponde comunque, c'è questa idea anche di socializzare attraverso la cultura di un orto, proprio la coltivazione? Ma certamente, io oggi mangerò prodotti che recupero direttamente dall'orto, e la possibilità di stabilire un condominio coeso, ad esempio, permette la sostituzione di quelli che vanno in ferie per l'irrigazione, per la condivisione dei prodotti. Il problema di cuore, cioè di fondo, è capire cosa bisogna fare per vivere meglio, perché abitare non è soltanto costruire una casa, abitare vuol dire stabilire delle relazioni in un luogo, e quindi occorre che le persone che vanno ad abitare vicini, l'amministrazione e l'istituzione in qualche maniera capisca che creare dei piani regolatori non è sufficiente, bisogna aiutare le persone a definire un patto di vicinanza. Speriamo che chi ci ha ascoltato questa mattina già era pronto con l'attacco per sigillare le cassette della posta del vicino antipatico faccia uno sforzo per pensare si potrebbe vivere meglio. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ricordo domani a mezzogiorno ci vediamo alle 12, abbiamo cominciato prima e quindi ci teniamo che voi lo sappiate.